Oggi con i mezzi di comunicazione siamo informati di tutti i morti che succedono nel mondo, che siano per incidenti stradali, disastri aerei, naufragi nel Mediterraneo, che siano azioni di guerra, azioni di terrorismo. Ormai, diciamolo schiettamente, non ci fa impressione più di tanto. A meno che ci sia una foto emozionante di un bambino raccolto morto dalle onde, oppure l'obiettivo si fissi su certe situazioni che ci muovono alla commozione, che ci muovono alla pena. La stessa cosa avviene per coloro che oggi nel mondo sono ancora uccisi per la fede cristiana. I papi ci hanno ripetuto che nel solo 1900, questo secolo, ci sono stati nel mondo più morti per la fede cristiana che non in tutti i 18 secoli precedenti sommati insieme, pensate. Però non ci facciamo troppo caso, a meno che leggiamo o vediamo qualche film, mi viene in mente Silence, vediamo qualche film o vediamo degli articoli che ci descrivono in maniera particolareggiata questo, allora si muove in noi pietà, compassione, commozione. A me è capitata la stessa cosa oggi, leggendo dell'uccisione di San Carlo Luanga e dei suoi compagni che ricordiamo nella messa di oggi. 130 anni fa, sapete, 1886, in Uganda, in Africa, sono stati perseguitati e uccisi questi giovani. Erano giovani, tutti maschi, bei ragazzi, prestavano servizio alla corte del re ugandese, Mwanga. Avevano il difetto di essere belli e buoni cristianamente. E in un mondo corrotto la bellezza spirituale splende. In mezzo alla sporcizia, se tu vedi una cosa bella, risplende ancora di più. E così sono stati richiesti dal re di cedere alle sue tendenze omosessuali. Loro hanno rifiutato e sono stati uccisi tutti. Un centinaio, anche se la Chiesa ricorda i martiri ugandesi, Carlo Luanga e i suoi 21 compagni. Quale insegnamento spirituale trarre da tutto questo? Primo, cari cristiani, leggiamo la stampa cattolica. Nessuno ci parla che ancora oggi nel mondo ci sono persone uccise per la loro fedeltà a Gesù Cristo. La stampa è troppo occupata a parlare di pettegolezzi, di attori, di cosiddetti divi dello spettacolo o di persone che oggi sono sulla cresta dell'onda politicamente, ma fra qualche anno saranno sprofondati nel mare. È troppo impegnata a parlare di queste cose superficiali, che non sa andare alla ricerca di persone che offrono la vita, che perdono la vita per un ideale. L'ideale, amici, non c'è più ideale. E allora nelle nostre case non dovrebbe mancare la stampa cattolica, magari un settimanale, magari un mensile, ma che ci riporta la vita della Chiesa, comprese le sofferenze per Gesù Cristo ancora oggi. E poi, secondo spunto, io vorrei assieme a voi chiedere a questi martiri ugandesi che il loro sangue versato per Gesù e per la fedeltà alla loro purezza possa ancora oggi scorrere per la purezza. Questa virtù così grande, così derisa, ma che fa delle persone belle anche esternamente, perché hanno uno sguardo pulito e l'occhio è la finestra dell'anima. Chiediamo che la purezza, ma non parlo solo dei giovani, parlo anche degli anziani, parlo anche delle persone mature, adulte, e naturalmente dei giovani o anche dei bambini. Che tristezza sapere che dei bambini che hanno accesso libero a internet sul loro cellulare ormai sono sverginati nella loro mente, nel loro cuore, da questo mondo che, essendo un mondo zozzo, vuole omologare tutti a sé, gli dà fastidio chi è diverso da sé. Chiediamo dunque che il sangue di questi martiri scenda su di noi oggi.